Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Appuntamento numero 260 del Soundcheck di Radio 24, prova del suono qui dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al mio compagno di avventure radiofoniche Francesco Tromba. Buonasera. Giunto, lo posso annunciare? Giunto forse all'ultimo giorno di scuola per te, mio caro, perché il signor Francesco Tromba adesso cambierà studio e cambierà vita, perché la sua attività radiofonica diventa finalmente seria. Basta con questa musica, basta con questo groove, con questo jazz, con questi artisti. Tra l'altro, lo vedi questo signore? Questo signore ha capito tutto, perché una volta era un professionista serio, faceva l'avvocato con bell'ufficio legale che gli portava tanti soldi a casa, ha cambiato lavoro, è diventato un artista, un cantautore, e adesso deve pagare delle rate a Equitalia, ma ne parleremo con lui. Mio caro Francesco Tromba, che presto raggiungerai Giovanni Miloli, quindi non posso che farti i complimenti. Grazie, comunque rimango nella famiglia di Radio 24. Resti a Radio 24, però cambi studio, perché adesso per venire qui al Groovemaster Studio mi dovrei dimostrare grande passione per la musica. Sì, comunque ogni tanto magari qualche incursione la potrò fare, dai. Ah, assolutamente sì. Allora Francesco, presentiamo il nostro ospite, è un piacere, naturalmente stavo scherzando e lo sto dicendo al mio ex amico avvocato, ma oggi da avvocato mi ritrovo ad avere amico un altro artista e un altro songwriter, è più bello dire songwriter che cantautore, ladies and gentlemen, Antonio Pascuzzo. Ciao Gegè e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, io un tempo, tipo qualche anno fa, ti avrei invitato in una rubrica radiofonica a parlare di aspetti legali legati alla musica, invece oggi mi ritrovo a parlare di musica con te, proprio perché c'è stata questa tua scelta di vita importante, lo puoi ammettere. Ho fatto outing. hai fatto outing prima di tutto in famiglia, cioè a un certo punto sì. Tu a tua moglie hai dovuto dire: cara, non posso più fare l'avvocato. Beh, insomma, questo è, mia moglie l'ha sempre sospettato, che prima o poi potessi mollare quella cosa, no? Ho cercato di coltivarle insieme, facendo prevalere sempre l'aspetto della formichina rispetto a quello della cicala, però la cicala poi vince, perché la cicala si gode le belle stagioni, adesso le stagioni cambiano, le stagioni sono più lunghe, fa più caldo, e quindi mi sembrava il clima ideale per la cicala. Ecco, raccontiamo un attimo la tua storia, non so se lo può fare Francesco Tromba, che sicuramente ha tirato giù il tuo profilo artistico e professionale. Sì, allora, cantautore, produttore, direttore artistico ed ex avvocato ormai. Cioè sei proprio fuori anche dall'ordine. Sì, mi sono sospeso dall'ordine degli avvocati. Okay. Ti sei sospeso o ti hanno sospeso? No, mi sono sospeso, non ho fatto nulla di male per essere sospeso, anche se di questi tempi sai anche cantare potrebbe essere un problema. Dal 2001 al 2010 è stato fondatore e direttore artistico del The Place di Roma, un piccolo spazio di 157 posti a sedere che ha ospitato grandissimi artisti. E che devo dire è nato sotto una buona stella, perché il primo anno di direzione artistica di questo club, lo dico io perché non sarebbe giusto farlo dire a qualcun altro, è stato l'anno di Gegè Telesforo, che ha chiaramente creato un solco che mi ha consentito di andare dagli artisti passando alla porta principale. Grazie. È stato anche in televisione, perché nel suo precedente progetto Rosso Antico è stato ospite diverse volte di Serena Dandini al programma Parla con me. È anche direttore artistico del Latina Jazz Festival dal 2014. Nel settembre 2014 ha ricevuto il premio MEI per l'originale direzione artistica. Ad aprile del 2015 è uscito il suo nuovo disco Pascouche, con sonorità evidentemente manouche, come dice il titolo lo stesso, e di questa nuova produzione fanno parte tra gli altri Angelo De Bar, Francesco Forni, Marco Siniscalco, Carmine Ioanna e Pericle Odierna, giusto per dirne alcuni. Allora, prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, direi di ascoltare un brano tratto proprio da questo album, che io ho trovato molto divertente, molto ben fatto e anche con un suono originale, mio caro Antonio. Grazie. Allora, l'album si intitola Pascouche, molto carino, da Pascuzzo a Pascouche, da da uomo di Catanzaro a chi, spagnolo, francese, marsigliese, sì, gitano, un gitano, un viandante gitano, Antonio Pascuzzo. Il brano si intitola La rabbia, qui al Soundcheck. Ho portato la rabbia ed il suo peso, ho risposto al veleno col sorriso, mi ha tradito un amico e l'ho difeso, ma ho fatto tardi e ho perso il paradiso. Ho mangiato la foglia dal tuo viso e hai sciupato i miei fiori senza vaso. Quando ho alzato le mani mi ero arreso, mi hai sparato due volte e non mi hai ucciso. La rabbia di Antonio Pascuzzo qui al Soundcheck di Radio 24, da questo album intitolato Pascush, e Antonio Pascuzzo è il nostro ospite per raccontarci soprattutto questo cambiamento. Ecco, una mutazione genetica potrei definirla, perché tu sei un uomo del sud, un uomo calabrese, quindi in qualche modo la passione per la musica e per l'arte te la porti dietro. Non è una cosa naturale, però, però anche in famiglia... Sì, è una passione che ho sempre coltivato, diciamo, relegandola a degli spazi amatoriali, e seppur dentro, come credo chiunque imbracci in maniera continua uno strumento, ci si fosse sempre quella voglia di trasmettere, di stare con gli altri, per me era lo strumento attraverso il quale fare condivisione, stare insieme agli altri. E poi, soltanto che poi sei cresciuto in una famiglia tradizionale, come è successo a me. Io pure avrei dovuto portare a casa una laurea in economia e commercio, pensa un po', però poi alla fine la passione per la musica ha vinto. Forse c'è anche una specie di in qualche modo c'è una specie di compiacenza occulta da parte di queste famiglie tradizionali, sì, che ti spingono a percorrere delle tappe più diciamo serie, perché più tu sicure. Vieni da una famiglia di avvocati? No, vengo da una famiglia di insegnanti. Mio padre e mia madre erano due insegnanti elementari, per cui la scuola era talmente prevalente che mio padre mi mandava a scuola da 39 in giù di febbraio. Io dovevo andare a scuola perché tanto non cambiava niente a casa, quindi... Fatto sta che, insomma, la passione per la musica però ha avuto il sopravvento però negli ultimi anni, cioè tu l'hai sempre coltivata. Io ho deciso subito di fare il musicista, quindi a un certo punto ho abbandonato l'università e mi sono dedicato completamente alla musica, facendo anche l'anno da carabiniere, perché allora se non studiavi dovevi fare il militare. E invece te... No, io ho fatto le tappe diciamo quelle che mi erano state ordinate, cioè ho fatto l'università a Roma, mi sono trasferito a Roma, ho fatto l'università, ho fatto giurisprudenza, mi sono laureato, ho fatto il militare per un anno e mezzo facendo l'ufficiale del genio e poi ho cominciato a fare l'avvocato in maniera assidua, normale, per comprare casa, pagare il mutuo, e conseguentemente questo mi ha portato ad avere una certa agiatezza, però a coltivare quella cosa come qualcosa che stava che poteva seccare, che poteva... E poi c'è stata... Sì, perché poi da avvocato, faccio io per farla breve, da avvocato sei diventato imprenditore nella musica, nel senso che hai iniziato a fare la direzione artistica di un club, avere a che fare con i musicisti tutte le sere, e poi ti sei domandato: ma perché non posso salire anch'io perché sul palco? Perché devo svegliarmi alle 9 domani mattina, quando posso indugiare fino alle 4 in queste meravigliose jam session? Allora è così. È andata così. Senti Francesco, allora, visto che tu sei il responsabile del repertorio in italiano, e questa prima parte la dedichiamo a repertorio in italiano, che cosa ci presenti? Allora, Bersani, Pacifico e Guccini sono riusciti. Un trio di attaccanti. Sì. Samuele Bersani è riuscito a coinvolgere nuovamente Guccini in questo progetto, che dopo che Guccini appunto è stato fuori dal mercato discografico, non ha più inciso per tantissimo tempo, anche per la nobiltà di questo pezzo, nel senso che questo pezzo, che si intitola Le storie che non conosci, è stato fatto proprio per finanziare il progetto dell'Associazione Italiana Editori, che finanzia i laboratori per i bambini non vedenti e ipovedenti. Allora, Le storie che non conosci, Bersani, Pacifico, Guccini al Soundcheck. Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, è l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Soundcheck, il suono della musica. A cosa serve un treno supersonico? Viaggiare dentro un missile dal gomito. La velocità strapazze bosche, fuste, fiori e le città. È un gioco che hai imparato, è un giorno che hai tradito, è un posto che hai sciupato tu. Alta felicità, un bellissimo titolo per questo brano scritto dal nostro ospite Antonio Pascuzzo. Questo è il Soundcheck di Radio 24, prima parte dedicata al repertorio in italiano selezionato dall'esperto in materia, il dottor Francesco Tromba. Comunque questa è l'ultima volta, e lo sai bene, perché è il tuo ultimo giorno di scuola con me. E quindi mi sono sfogato al massimo. Sì, il tirocinio che potevi fare con me l'hai fatto, ti sei sfogato, adesso vai da Minoli così non dici neanche una parola e non si saprà mai più nulla di te. Sì, anche perché sarò l'ultima ruota del carro, quindi non mi posso permettere assolutamente di fiatare. Vabbè, chiamerò Giovanni e glielo dirò, no? È il caso di dire che gli metteranno la sordina, diciamo. Bella, questa non è male, questa non... Complimenti, lei è un bravissimo autore, Pascuzzo. Grazie, sono qui. Allora, Antonio, abbiamo raccontato parte della tua vita, quindi da avvocato un bel giorno hai deciso proprio di abbandonare la professione e di dedicarti alla musica, di dedicarti alle tue canzoni, cosa? Io ho una domanda sul brano che abbiamo appena ascoltato. Su Alta Felicità? Sì. Prego, Tromba. Visto che scappa? Sì, sì, mi scappa perché appunto devo cogliere l'occasione, visto che comunque è dedicato appunto alla tematica della TAV, visto anche le notizie che ci arrivano appunto della condanna di Henry De Luca, volevo anche un parere sia da artista che da avvocato. Mi espongo. Intanto grazie della domanda, perché il pretesto per poter dire pubblicamente una cosa che sento come una necessità e un'urgenza. Vai a prendere la toga. Credo che l'accusa, ancora non è una condanna, per fortuna è solo una richiesta di un pubblico ministero. Credo che semplicemente aver ipotizzato che per un poeta l'Italia, in nome del popolo italiano, un pubblico ministero faccia una richiesta di condanna a 8 mesi, non astrattamente considerata, nei confronti di Henry De Luca, di quello che lui regala alla poesia e alla letteratura italiana, sia veramente una cosa offensiva per l'onore dell'Italia e per quello che noi siamo diventati. Cioè un paese in cui ci sono personaggi che vanno in televisione e fanno a pezzi la nostra Costituzione e sono apertamente razzisti, che danno dell'orango a un deputato o dicono cose veramente che fanno rivoltare le viscere. Sapere che lo Stato italiano è impegnato con dei suoi mezzi e dei suoi servitori a cercare di condannare Henry De Luca è una vergogna nazionale. Bisognerebbe fare il giorno della vergogna nazionale, andare tutti davanti al Tribunale di Torino per vergognarsi di quello che sta succedendo. Sono pienamente d'accordo. Senta Pascuzzo, lei non ha perso quella verve e quel piglio che nei tribunali l'hanno contraddistinta in tutti questi anni? Beh no, quella non si perde, perché secondo me un avvocato è come un diamante. Devo dire che sempre. La comodità per te è che pure quando devi fare i contratti, che ne so, discografici o da direttore artistico, li curi personalmente. Però quello, come si dice, un avvocato non dovrebbe mai difendere se stesso, infatti sono schiavo delle mie debolezze, quindi la musica è la peggiore debolezza per me, quindi conseguentemente faccio dei pessimi accordi. Ecco, da un punto di vista musicale, quali sono i tuoi maestri? Quali sono i songwriter italiani ai quali ti senti legato? Tu in questa scelta hai contribuito tantissimo, anche quando nel periodo in cui non ci conoscevamo, io conoscevo te e quello che facevi in TV. Doc è sicuramente stato uno dei momenti di maggiore assorbimento. Per quanto riguarda i songwriter italiani, certamente quello a cui c'è anche una piccola dedica sulla copertina dell'album è Pino Daniele, a cui credo dobbiamo tutti molto. È soltanto un paese così provinciale nell'esportare la propria cultura contemporanea come l'Italia può consentire di portare all'estero, che ne so, vabbè, altre cose, non Pino Daniele. Allora, che cosa hai scelto adesso? È un brano di Tricarico. Che è uno dei tuoi preferiti. Sì, in realtà vabbè, l'ho conosciuto anche personalmente, mi è capitato. Dal punto di vista proprio della scrittura delle canzoni a me piace molto, perché riesce a parlare magari di temi profondi con dei testi completamente anche frivoli in alcuni casi, quindi mi piace molto il suo modo. Ma avete comunicato? Sì, abbiamo comunicato. Strano. Sì. Sì. Allora, La Mela, il titolo di questo brano di Tricari. Cani che passeggiano si scaricano, le donne che si sposano si caricano, ma gli uomini che si sposano si scaricano. Soundcheck. Il suono della musica. Fado del Partigiano, un'altra composizione scritta da Antonio Pascuzzo, che troverete nel suo album Pascush, pubblicato da poco per Parco della Musica Records, ovvero la casa discografica e quindi edizioni musicali legate al Parco della Musica, una bellissima struttura presente nella nostra capitale. Suonare in quei bellissimi teatri è prestigioso, un vanto. Tu ci hai suonato? Ci ho suonato sia per questa, in questa occasione, sia nella presentazione dell'album questa volta che nella precedente occasione. Sono credo 4 volte che ci sono. Allora, tu da avvocato sei diventato un artista, cantautore, songwriter, vivi da musicista. Fortunatamente, lo voglio dire a Francesco Tromba, sua moglie non è diventata una ballerina, ma continua a essere un legale di prestigio, no? Sì, grazie a Dio, continua a farlo con successo. C'è chi in famiglia porta lo stipendio sacrosanto, no? E chi porta invece altre cose. Beh, tu porti arte, no? Sì. Sì, a proposito, dimmi una cosa, perché sono molto curioso di sapere tua moglie come ha appreso. Che hai fatto tu un bel giorno? No. Hai detto: guarda, io la lascio perdere. Beh, la cosa è maturata gradualmente, perché l'esperienza del The Place è stata un'esperienza che è durata 11 anni, quindi 11 anni per tutte le notti, pian piano questa evoluzione era nell'aria. Ma poi io e Laura abbiamo sempre condiviso la passione per la musica, continuiamo e andiamo a seguire concerti sempre, in ogni occasione. Sì, leghiamo il problema le è di Laura, vacanze. Di tua moglie, che intanto saluto, che segue il marito, sì, mi segue anche i concerti, tour. Nelle tournée, quando dirige i festival di jazz come Atina Jazz, però poi la mattina lei si deve svegliare perché deve andare in tribunale. Questo piccolo dettaglio, problema. Lì le nostre strade si separano, diciamo. Sì, tu resti tranquillamente a dormire, il caffè parte verso le 11. Esattamente. Sai. Esattamente. Senti, che idea ti sei fatta, ti sei fatto poi da militante vero e proprio dell'ambiente musicale italiano? L'idea è abbastanza complessa, articolata e ricca di sfaccettature anche contraddittorie tra di loro. Sicuramente è un ambiente molto, molto ricco, perché in realtà è un ambiente molto ricco di proposte, ci sono tanti generi coltivati spesso ad altissimi livelli. Il problema che guardandolo, diciamo, con un occhio più freddo, è un ambiente come tutti quelli dove ci sono poche possibilità, che si incattivisce da questa limitatezza di posti. La questione, secondo me, riguarda proprio l'aspetto industriale, cioè gli artisti italiani sono di altissimo livello e sono supportati da un'industria discografica e promozionale di veramente livello di quarto ordine. Diciamo le parole come stanno, nel senso che voglio dire, quando un prodotto è di buona qualità e non si riesce a distribuirlo, a venderlo e a promuoverlo, la colpa non è di chi lo fa, ma di chi deve non fare. Solo delle cosa. Case discografiche, no, anche, ma in generale i media, radio e televisione hanno le loro responsabilità. Adesso siamo in un media, ma diciamo primi fra tutti i media. Allora, ne parliamo fra pochissimo, perché proprio per questo io vorrei dare ancora una volta esposizione a un talento vero, un talento siciliano, una formidabile vocalist siciliana, insegnante di musica, si chiama Daniela Spalletta, molto vicina all'ambiente jazz, ma anche con una passione per la musica popolare, e infatti ha scritto questa melodia meravigliosa intitolata Zahara, che troverete nel suo album intitolato The Bird, con la partecipazione degli Urban Fabula, anche questo un trio di giovani talenti siciliani. Daniela Spalletta al soundcheck di Radio 24. Quando ti manca usciato e le parole, pare che non li sai pronuncia, e sospirano piano, tiene a freno un cuore insano, cavoli su petto abbanno. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24 si torna dal Groovemaster Studio con il soundcheck, e questa sera nostro graditissimo ospite, una volta lo presentavo come avvocato Antonio Pascuzzo, adesso solo Antonio Pascuzzo, neanche signore posso dire, perché maestro potrei dire, maestro Antonio, sarebbe detto da te, Antonio... sarebbe un'investitura, diciamo, maestro Antonio Pascuzzo, però me lo devi dire con una spada poggiata sulla spada. No, assolutamente no. Un piacere vederti e grazie per essere venuto a trovarmi. Tra l'altro tu sei anche impegnato poi l'estate come direttore artistico di un bel festival jazz che hai recuperato nella città di Atina, città molto ospitale. Io ci sono tornato quest'anno e ho verificato di persona che la tua organizzazione è impeccabile, quindi complimenti. Grazie. Perché hai organizzato un festival da artista, ecco. Sì, forse questo è il taglio più del quale vado più fiero, nel senso che la priorità è quella che ho imparato ad amare nel club, no? Nel senso di attenzione agli artisti da quando decidi di chiamarli a quando li promuovi, li comunichi, li fai riconoscere al territorio e quando poi li ospiti. È la grande gioia di poter decidere quale musica sentire. Ecco, una cosa che a te sta molto a cuore è l'attività dei giovani talenti. Tu dicevi prima che l'Italia è un paese particolare, non c'è grande possibilità per i talenti di farsi ascoltare in radio e di farsi vedere in televisione, perché mancano proprio gli spazi o un certo tipo di attenzione. Sì, il discorso sarebbe lungo, ci porterebbe in tante altre cose, e siccome gli spazi sono pochi, è bene quelli preziosi che abbiamo di dedicarli veramente come stai facendo tu, facendomi una cosa graditissima al mio lavoro. Però siccome il mio lavoro è anche quello di contribuire insieme agli altri alla ricerca, io oggi sono ammirato da quello che ho ascoltato. Questa artista Daniela Spalletta è veramente... un incanto, una cosa che mi ha pervaso, mi è entrata attraverso queste cuffie. Ho paura di doverti rubare il CD. Sono addirittura fiero del fatto di essere nella stessa puntata con lei e anche di avere la stessa distribuzione, se non mi sbaglio. Quindi sono veramente doppiamente felice di questa storia. Io presento Zahara perché è una canzone romantica e bellissima, è una melodia antica e moderna al tempo stesso, potrebbe essere stata scritta da compositori di questi per colonne sonore, che non voglio dire Ennio Morricone, però insomma quel tipo di ispirazione. E poi invece The Bird, che è l'album di Daniele, è un album di jazz contemporaneo dove Daniela dimostra anche delle qualità vocali tutte da scoprire, quindi, pazzesche. Quindi, visto che fai il direttore artistico, considera ne ho preso nota sicuramente. Allora, in questi casi. Abbiamo rubato un po' di tempo, vorrei farti ascoltare, poi ho varie domande per te Antonio, e qua vorrei che venisse fuori come uno zelig l'aspetto legale. Mm-hmm. Ecco, ok, tutta la tua conoscenza in materia, perché vorrei parlare un po' di diritti d'autore e di cose di questo tipo. Vorrei farvi ascoltare una composizione di Roy Ayers, campione del soul jazz degli anni 70 con il suo vibrafono, che viene ricordato da un trombettista di origini giapponesi, esatto. Allora, e il signore si chiama Takuya Kuroda, naturalmente giapponese, ma residente dove, tromba? Allora, ha fatto la Berkeley, però adesso sta a New York. Sta a New York, e qui incontra anche un suo compagno di cameretta? Sì, perché anche José James ha fatto la Berkeley. E allora, José James, la voce di José James, o José James, non so mai come pronunciarlo, questo signor James, Takuya Kuroda con Everybody Loves the Sunshine al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. La Woman, il nuovo album della formidabile poetessa del groove Jill Scott from Philadelphia. Il brano è Prepared qui al Soundcheck di Radio 24, dove arrivano probabilmente per l'ultima volta su questi schermi i famosi e tanto attesi squilli di tromba. Ti mancheranno, vedrai che Giovanni Minoli non te li farà fare. Questo sicuramente non me li farà fare, però... Più che altro il lamento di tromba con la sordina, come diceva Pascuzzo. Vabbè, allora, annunciamo subito un festival dal 18 al 25 di ottobre, il Jazz and Wine of Peace 2015, arrivato alla 18ª edizione, che si svolgerà tra Cormon e la Slovenia. Ci saranno il 18 Vincent Pierani, Paolo Fresu con il suo quartetto, Charles Lloyd, Jeff Ballard, Stanley Clark, Kenny Garrett, quindi grandissimi artisti. Vi rimando al sito controtempo.org per vedere tutte le location del caso. Un altro grandissimo che arriva in Italia è Chick Corea, che suonerà il 20 e il 21 al Blue Note di Milano. Bene, gli squilli sono finiti? Veloce. Molto bene, allora parlavamo di musica, parlavamo di concerti. Antonio, tu fai, Antonio Pascuzzo, nostro ospite, fai, organizzi anche dei festival, hai guidato quanti anni? 11 anni? 10. 10 anni il The Place di Roma, bellissimo locale, attrezzatissimo. Ecco, una cosa importante per un club è l'attrezzatura. Il The Place ce l'aveva, bellissimi strumenti, un bellissimo pianoforte, invece si continua ad andare in giro nel nostro paese a esibirsi in club che non sono nati per la musica e che non hanno neanche le attrezzature adatte per poter ospitare dei grandi nomi, però questa è l'Italia, no? Sì. E allora qual è l'aspetto più complesso per l'organizzazione di un festival jazz come quello di Atina? Ma sicuramente quello di reperire i fondi in un periodo come questo. E questa è la cosa più difficile oggi, è no? Sempre la cosa più difficile, oggi di molto di più, ma perché commercialmente, diciamo, la musica in generale, come la intendiamo noi, come credo la intendano quelli che stanno ascoltando questo programma, è qualcosa che agli occhi di chi guida le scelte, non soltanto delle case discografiche ormai, ma anche della pubblicità, eccetera, è qualcosa di relegato ai margini, per cui è più facile reperire degli sponsor se prendi due tronisti piuttosto che averli. È vero, perché i tronisti pagati fatto, molto di più di Paolo Fresu. Esatto, io pensavo l'anno prossimo di mettere sul palco comunque due tronisti che comunque ci fanno da garanti sulla qualità di quello che a torso nudo. Beh sì, probabilmente sì. Stanno lì fermi senza fare niente. Intanto ci sono degli esperimenti a metà strada, no? Quest'estate mi è capitato di vedere un concerto con due bravissimi musicisti, tuttavia anche sembravano usciti da Beautiful, e quindi il concerto è iniziato in una maniera garbata ma è finito con reggiseni sul palco, quindi ecco, questa è una via di mezzo. Ecco, e invece io probabilmente ti vorrei raccomandare un'altra artista, che è Franco Marocchina, cantante, attrice, si chiama Indy Zara, la conosci? Sì, l'ho sentita. Ah, Indy Zara la conosce? Che suonerà anche in Italia. Quando? Il 28 di ottobre all'Auditorium Parco della Musica e il 29 a Bari, al Medimex. Bene, e allora andremo a seguirla perché l'ultimo album è molto ben realizzato, un sound originale per questa formidabile cantante che sta spopolando in Francia. Sì, è bravissima, l'hanno definita anche la Patti Smith del Marocco, però ogni volta non capisco per quale motivo. Non ho capito se è un complimento questo. Sì, praticamente anche un chitarrista bombino che suona con lei viene definito il Jimi Hendrix del deserto. Beh, ogni volta bombino. Dobbiamo appunto dare queste definizioni da musica occidentale. Bravo, e invece soltanto una grande artista, Indy Zara, quindi sarà dove? All'Auditorium Parco della Musica il 28 di ottobre a Roma e il 29 a Bari al Medimex. Questo è il suo sound da Homeland, il brano si intitola Silence. Silence in my heart. Soundcheck, il suono della musica. Sì, lì a Londra puntano da sempre sulla creatività, quella genuina dei Native Dancer, una band composta da musicisti che provengono da varie estrazioni musicali. La voce è quella di Frida Mariama, bellissima donna. Sì, che tra l'altro adesso è diventata la corista di Lian Lavas, quindi sta facendo strada piano piano. E quindi sta girando il mondo con Lian Lavas, Frida Mariama, vocalist dei Native Dancer, qui con Until Frida Speaks al Soundcheck di Radio 24. Native Dancer hanno fatto un solo concerto l'estate scorsa in Italia al Festival Jazz di Gaeta. Ecco, certi artisti bisogna andarseli poi a cercare nei piccoli festival di provincia, ma quelli genuini dove si ascolta grande musica. Antonio Pascuzzo è il nostro ospite, abbiamo già presentato il suo nuovo album intitolato Pascus, ma Antonio, che è stato avvocato per tanti anni, la moglie adesso è felicissima di ritrovarsi dopo tanti anni di convivenza con un avvocato o un artista in casa, perché così può sfoggiare durante le cene con le amiche, no? L'arte in famiglia, o no? Sì, scusami. Sì, assolutamente. No, io adesso sto scherzando perché... No, ma è la verità. Tu sei stato anche il mio legale per un bel po' di tempo, certo, quindi certo. Adesso mi dispiace per te, guarda, lo dico sul serio, perché vivere d'artista è difficile. Lo so, guarda Giuseppe, sai benissimo che io vengo qui e stamattina ero a Equitalia, quindi lo possiamo dire pubblicamente, cioè fare l'artista ha uno scotto da pagare. Ecco, quindi tu da quando sei diventato artista hai subito conosciuto i signori di Equitalia. Improvvisamente... Sì, diciamo che i primi che si sono accorti che fossi diventato un artista sono stati quelli dell'ufficio delle entrate, diciamo, che si chiedevano come mai tanta latitanza. Diciamo. Ma questo lo sai perché? Perché tu hai scelto di fare l'artista e il songwriter ironico ma impegnato. Quello è proprio. Sì, perché infatti questa cosa dei cantautori che poi a un certo punto devono decidere di impegnare, cioè si devono per forza impegnare dal punto di vista politico, quindi da un certo punto di vista può essere un vantaggio, ma dall'altro... No, a parte la cosa politica, no? Della scelta politica, è proprio la cosa di voler scrivere sempre delle cose intelligenti. Sì, perché? Ma insomma, quello deriva sempre da quello spirito competitivo, no? No, in realtà c'è una parte di questo ragionamento per me è condivisibile, nel senso che in realtà c'è molta maniera nel fare il cantautore e tanta maniera nel fare il cantautore anche negli atteggiamenti. Oggi non puoi fare il cantautore senza avere due baffi o un cappello, no? Quindi io, siccome il cappello mi stava male, ho optato per i baffi. Poi c'è il fatto di... Pensa, non li avevo notate. C'è il fatto di andare sul palco comunque e trattare degli argomenti, o comunque prima di fare qualunque canzone parlare dell'argomento che vuoi trattare o della dedica che vuoi fare, magari citando un paio di personaggi al di sopra di ogni sospetto che magari sono morti nell'esercizio delle loro funzioni, e quindi circondare tutto questa, quello che fai di questa aurea. Però io sono dell'idea invece che la genuinità sia proprio nei cantautori che riescono a portare come un cavallo di Troia. L'argomento rimane una scelta personale, poi il fatto di porgerlo in maniera divertente. Io indagando su questo argomento, insomma, la risposta che mi sento fare molto spesso è perché in Italia non esiste più la leggerezza. Cioè l'atmosfera è pesante, quindi non c'è la leggerezza e i cantautori scrivono delle cose, comunque, come dicevi tu, tristi? Sì, anche il cantautorato triste. Anche te. Però da sempre questo succede, io volevo chiedere, no? Volevo ribaltare un attimo una cosa, sapere se Tromba ha avuto questa, diciamo, questa, è arrivato a questa conclusione dopo aver ascoltato il mio disco, spero di no. Però... No, assolutamente no, perché altrimenti non sarebbe proprio neanche entrato nello studio. Non sarebbe passato, perché noi già nelle passate stagioni del nostro Soundcheck, nella rubrica dedicata alla canzone d'autore italiana, abbiamo combattuto il cantautorato triste. L'ho combattuto anche come direttore artistico, perché ritengo che sia veramente una cosa di maniera, è come un travestimento, come l'abito che non fa il monaco, c'è veramente un modo di fare canzone triste, smunta, cioè come se quell'atteggiamento fosse di per sé un indice di valore, di serietà, invece è un indice di seriosità e quasi di non aver compreso che alcuni dei cantautori che hanno fatto i maestri songwriter italiani erano anche le persone con cui era piacevolissimo andare a cena, insomma, no? Tu compri dischi? Tantissimi. Compri, ascolti tanta musica, non ascolti soltanto la tua musica o quella dei colleghi cantautori? Assolutamente no. No, perché invece molti artisti non comprano musica. No, io sono... Io sono andato a casa di artisti, di colleghi musicisti anche affermati, e ho notato con grande dolore che hanno 50-60 dischi al massimo. In una carriera... Tu sei stato a casa mia, quindi non c'è bisogno... No, lo so. No, però ti dico, è per me è proprio una necessità. Nel senso, io mettermi a fare un disco... Senza sapere, io ritengo che un disco sia veramente un filo, il partecipare a una trama complessa. La cosa che mi rende orgoglioso di essere qui, no? È di essere in un contesto, cioè essere arrivato con il mio disco a parlare insieme ad altri come se partecipassimo tutti ad una tessitura, no? Cioè, non potevo fare questo disco senza aver ascoltato la tanta straordinaria musica. Yasa de Sela o aver conosciuto le Dua de l'Homme, tanti artisti che magari non sono all'apice del successo né nelle radio né nelle TV, che però credo che stiano aiutando a tessere questa trama. Allora, invece restiamo a Londra, mio caro Francesco, e vorrei che tu ci presentassi col tuo stile, sempre con la sordina, i Nubian Twist. Sono dei fenomeni, basta questo. Basta questo. E allora così, Workhouse. So kick me out, lick the style, put fever in the seas to this notion of green, leaves the room for further doubt. Winning by landslide, don't need to abbreviate the score, only generalize the faces falling through the door. Haven't worked in weeks in which I haven't got a clue. Brush me off your seat because your lunch is coming through, so save that. Explain all your do's and your don'ts. Waste a sparking entrance, know the sucker's got your throat to the tonic note. Soundcheck, il suono della musica. Da Londra con Native Dancer e Nubian Twist ci siamo spostati direttamente a New York City con i Brass Tracks, una band di fiati eccellenti trombettisti in corduroy, per chiudere in bellezza il soundcheck di Radio 24 di oggi. E voglio ringraziare per la partecipazione il nostro amico Antonio Pascuzzo. Complimenti, complimenti e in bocca al lupo per l'attività, insomma, per la musica, per la famiglia. Cerca di tenerti, carissimo, tua moglie, che che mi sembra fondamentale in questo momento, da quando fai il songwriter. Lo è sempre stata, direi. No, mi permetto di scherzare, perché vi conosco tua moglie, che abbraccio fortissimo. Senti, allora, impegni, concerti, attività? Beh, insomma, quest'estate abbiamo suonato un po', e adesso io mi divido sempre tra l'attività di suonare e quella di far suonare. No, quindi... perché tu hai rischiato anche di entrare nella, come dire, cinquina del premio Tenco? Sì, cinquina finale. Sì, sì, sì, c'è stata questa preselezione nella quale il mio disco è stato preso in considerazione. Beh, già praticamente una nomination. Una nomination, sì, perché poi c'erano tra l'altro i nomi importanti, appunto Paolo Conte, Francesco De Gregori, Carmen Consoli, tutti, ma anche tutti quelli che hanno partecipato. Insomma, è molto bello per me passare da questa parte, no? vedere il mondo da quest'altra parte, quindi i concerti di ottobre sono alle porte, ce ne saranno alcuni importanti. Senti, e stai già pensando alla prossima edizione del Festival Jazz di Atina? Ma speriamo di farla a Natale, ogni anno ci ripromettiamo di rispettare, insomma, i canoni delle stagioni, quindi il winter, che si possa riuscire a fare a Natale, e ci sto pensando, e devo dire che in questa puntata ho avuto un'illuminazione almeno su una delle artiste che mi piacerebbe. Daniela Spalletta. Sì, bene, bene, glielo diremo. Glielo diciamo dal vivo, così, in diretta, in questo momento. No, ma gliel'ho già detto in diretta qualche puntata fa. Daniela, vieni a trovarci, vogliamo parlare di te, vogliamo capire che cosa mangi lì in Sicilia. Soprattutto adesso che il signor Tromba lascia lo studio definitivamente, perché si trasferisce con tutto il suo peperoncino nello studio centrale lì a Roma con Giovanni Minoli, no? Ci sarà penuria di prodotti tipici calabresi, perché lì sono banditi, no? No, vabbè, da te dico, ci sarà penuria. Ah, da me? Sì, sicuramente, però tu ogni tanto fatti vedere, perché sennò io sono costretto ad assumere proprio il maestro Pascuzzo, che anche lui da calabrese mi porterà il peperoncino. Senti, perché non vieni? Perché non vieni? Te la faccio subito la proposta. Perché non subito mi vieni a trovare, parliamo di musica, ma fai la tua rubrica su... la musica italiana. Ecco, però cambiamo il nome, che una volta era Squilli di Tromba, come la chiamiamo? Non lo so, troveremo un nome, troveremo alta felicità, perché alta felicità non perché è mai, ci piace la musica felice. È andata con alta felicità, noi vi salutiamo, grazie Antonio Pascuzzo, Francesco, in bocca al lupo. Crepi. Salutami Giovanni Minoli. Te lo saluterò. E suonagli qualcosa di bello, dai, lui ascolta hard rock pesantissimo. Allora, chiudiamo con Motion Worker, questo meraviglioso musicista, bassista, ma anche un, come dire, un DJ, eccellente disc jockey e amante di strane sonorità che si rifanno al passato, che combina insieme il brano. Si intitola Clap Your Hands. Motion Worker al Soundcheck, ci risentiamo domani sera alle 19:15 per un'altra puntata dedicata al jazz. Grazie Antonio. Grazie Giuseppe. Alta felicità, ti aspetto. Yes. Thank you.